Abbiamo votato contro questo decreto perché è un decreto che all'articolo 1 minaccia nel modo più assoluto la libertà concreta fisica delle persone, perché equiparando il file sharing non commerciale alla pirateria della camorra e della mafia ipotizza fino a 4 anni di carcere. Inoltre mette un assurdo bollino sul software e anche una tassa sui masterizzatori. Avevamo chiesto alla rete, al popolo della rete, di darci una mano in questa battaglia. Abbiamo selezionato 750 degli emendamenti arrivati. Il governo ha ottenuto nella riunione di capigruppo il contingentamento dei tempi, quindi ho avuto solo 8 minuti per la mia discussione generale e l'illustrazione degli emendamenti. Per fortuna tutto questo lavoro, la mobilitazione anche ieri davanti al Senato, ha portato il ministro Orbani a capire che erano fondate le nostre critiche. C'è stato un impegno a mettere la cancellazione del bollino, della tassa sui masterizzatori e di togliere l'equiparazione tra file sharing non commerciale e pirateria in un provvedimento di legge che già settimana prossima sarà alla Camera in commissione con poteri equivalenti all'Aula, quindi vuol dire che ciò che è approvato in commissione alla Camera passerà subito qua in commissione al Senato. Noi abbiamo votato comunque contro il decreto perché questa disponibilità del governo non ha modificato questo decreto, andrà a modificarlo a posteriori utilizzando un'altra legge, quindi questo è un grande pasticcio che si è creato. Ora noi cerchiamo di mantenere una pressione sul governo affinché rispetti gli impegni che ha preso col Parlamento e pubblicamente anche nelle dichiarazioni alla stampa. Gli altri articoli del decreto sono invece articoli che hanno ricevuto un'ampia condivisione, in particolar modo dalle conferenze Stato e Regioni, delle autonomie locali, sia per quanto riguarda musica sinfonica, sia per quanto riguarda gli sport legati alle autonomie locali e quindi al territorio. Per noi comunque ha prevalso un giudizio rispetto alla gravità e alla contraddittorietà rispetto agli indirizzi europei dell'articolo 1 che citavo prima, però consapevoli che c'era un'assoluta trasversalità comunque favorevole al fatto che il decreto venisse messo in votazione, tant'è che DS e Margherita SD si sono astenuti, non hanno votato contro come noi, abbiamo accettato quel tipo di mediazione puntando su una fiducia sul ministro, spero che se la possa meritare.